elementi distintivi di un cristiano. In una rivista religiosa leggevo la riflessione di un credente sull'attuale crisi che attraversano le chiese. Quell'uomo si poneva una domanda: in che cosa vedi la differenza tra un cristiano e un non cristiano? E proseguiva con una triste constatazione: mi guardo attorno, guardo alle persone della mia comunità e a chi incontro nel paese, e non trovo nulla di differente, né nelle affermazioni, né negli atteggiamenti. A questo punto vado però oltre la domanda sulla visibilità di differenza tra cristiani e non, e mi chiedo: siamo cristiani? Da sempre i credenti in Cristo si pongono la domanda chi è un cristiano e quali sono gli elementi distintivi che differenziano un cristiano da chi non lo è. A mio avviso questo avviene perché si usa il termine cristiano tanto impropriamente, al punto che il vocabolo cristiano non ha più senso. Tutti quelli che fanno professione in Cristo sono definiti cristiani, tutti gli appartenenti alla religione cattolica romana sono definiti cristiani, tutti gli appartenenti al protestantesimo sono ritenuti cristiani, spesso si ritiene cristiano anche chi possiede anche una qualsiasi altra fede, meno ad esempio i testimoni di Geova, e questo senza guardare minimamente il loro tenore di vita. Così, con queste opinioni, sono ritenuti cristiani coloro che pullulano le religioni, la religione cattolica romana è ritenuta cristiana anche con un passato e un presente meno in certe parti del mondo, meno di persecuzioni e assassini di chi non accetta la sua autorità. Il protestantesimo è ritenuto cristiano anche se rifiuta l'autorità della scrittura. Altre persone religiose sono ritenute cristiane anche se Cristo non è la sola unica guida e verità. Per quanto ormai sia tardi, ci è da chiedersi seriamente se non è giunto il momento di prendere solennemente in considerazione la possibilità che stiamo commettendo un errore fatale nelle nostre valutazioni e di avere coraggiosamente il desiderio di modificare non solo il nostro pensiero, ma anche il nostro parlare. Dato che le parole hanno un significato e usarle impropriamente, molte volte costa caro, dobbiamo usare il termine cristiano in modo appropriato. Solo così sarà possibile capirci, ma soprattutto tracceremo quella giusta e indispensabile linea di distinzione religiosa necessaria per la sopravvivenza. Come potremmo vivere se il mondo fosse di tutto un colore? È stato scoperto che gli animali fanno distinzione fra i colori. E se tutto fosse dello stesso colore, come potrebbero le api meno, per esempio, produrre il miele? Come potremmo vivere se i cibi avessero un solo sapore? Quante volte abbiamo evitato di mangiare dei cibi avariati solamente grazie alla capacità di valutarne il gusto? Così, se tutti i cattolici, tutti i protestanti e coloro che professano Cristo sono cristiani, nonostante siano magari assassini, violenti, bugiardi, come riconosceremo coloro che seguono colui che ha radicalmente diviso il mondo religioso in due, cioè Gesù Cristo? La parola di Dio afferma: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17:9. Vi sono persone che per tutta la vita cercano di non essere ingannate dal prossimo, senza rendersi conto che l'ingannatore o l'impostore per eccellenza, si trova proprio nel loro essere. Quante persone si definiscono cristiane senza esserlo, mentre alcune lo dichiarano, senza soppesare ciò che sostengono, altre l'affermano con sincerità, proprio perché esistono persone che sinceramente pensano di essere cristiane nonostante il loro comportamento contraddicente, è opportuno valutare le caratteristiche del vero cristiano per evitare a chiunque di ingannarsi con delle convinzioni sbagliate, tenendo conto che i fatti sono delle realtà indiscutibili. L'apostolo Giovanni mise in evidenza questa verità quando scrisse: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo, 1 Giovanni 4:20, e ancora chi dice io ho conosciuto Dio e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Un cammino non corrispondente alle affermazioni che si sostengono rende l'uomo bugiardo. Una persona che si definisce cristiana deve inevitabilmente avere un cammino conforme alla sua testimonianza, come una persona che si definisce musulmana. Se un uomo afferma di essere musulmano, ma entra in un locale di culto cattolico romano, prega Maria e si confessa con un prete cattolico. Sfido chiunque a credere alla sua testimonianza in merito all'essere un musulmano. E così vale anche per il cristiano. Se un uomo sostiene di essere un cristiano, ma ritiene che Cristo sia solo una delle tante divinità, se non è nato di nuovo, se vive da adultero, se inganna il prossimo, se non ama coloro che hanno realizzato la nuova nascita, se non testimonia di Cristo, se non aspetta il suo ritorno, come può definirsi cristiano? Chi crederebbe alla sua testimonianza circa l'essere un cristiano? Lo potrebbe credere uno come lui, che si professa cristiano non essendolo. Ma a nulla valgono le argomentazioni false perché la verità rimane tale, riconosciuta o no. Come deve essere dunque la vita di un cristiano? Come si distingue un cristiano da chi non lo è? Quali sono le prove evidenti mediante le quali si può definire cristiano una persona? Quali sono gli elementi distintivi di un cristiano? Sono tanti, ma per non cadere in opinioni soggettivistiche e per non dare a chi è un cristiano un volto condizionato dalla cultura, è conveniente limitarsi a esaminare alcune peculiarità, senza le quali non è possibile definirsi cristiano. 1. Il primo elemento che distingue un cristiano è la sua fede cristocentrica e apostolica. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Efesini 2, 19-20. I primi cristiani erano membri della famiglia di Dio, la loro fede era edificata sull'insegnamento degli apostoli, la quale aveva come pietra angolare Gesù Cristo. Dopo 2000 anni il fiume della fede cristiana si è inquinato. È più che mai opportuno quindi ritornare alla fonte e possedere la fede originaria del cristianesimo. È un fatto indiscutibile che i primi cristiani avessero una sola autorità definitiva, e cioè le sante scritture, e queste erano per loro un'autorità al di fuori del calderone dei pensieri dell'uomo, pensieri relativistici mutevoli e ristretti. Dopo 2000 anni, dobbiamo riconoscere che ciò che distingue il cristiano da un credente qualsiasi, cattolico, protestante, ortodosso o appartenente ad un'altra confessione di fede, è l'autorità dalla quale dipende. Mentre l'autorità di un ateo è la propria ragione, per un religioso è Buddha, Maometto o un altro capo spirituale, nel caso di un cattolico l'autorità è la parola di Dio unita alla tradizione. Per un protestante liberale l'autorità è la Bibbia, che contiene la parola di Dio, ma non per questo. Per lui essa è la parola di Dio. Per il cristiano invece l'unica autorità in materia di fede e di condotta è unicamente la parola di Gesù Cristo trasmessa dagli apostoli e dai profeti che abbiamo nella Bibbia. Il cristiano è colui che considera autorità apostolica gli apostoli stessi e non i presunti successori degli apostoli, anche perché nessuna persona che pone la propria fede soltanto nella testimonianza dei profeti e degli apostoli non diventerebbe né cattolica romana né tantomeno ortodossa o protestante. Col passare del tempo queste confessioni chiamate cristiane a volte non hanno temuto nel formulare il non pensabile, quindi è giunto il momento che chi si definisce cristiano si stacchi da ogni legame religioso contraddicente la scrittura e, compiendo un salto indietro di 2000 anni, ritorni alle semplici parole degli apostoli e profeti. Se ti ritieni un cristiano, rivendica la parola di Dio come unica autorità della tua fede, perché passeranno i cieli e la terra, ma le parole di Gesù Cristo rimarranno in eterno. Giustamente San Giovanni Crisostomo ha detto 354-407, quando l'eresia si impadronirà della Chiesa, sappiate che non vi sarà prova di vera fede e di cristianità se non con le sacre scritture, perché quelli che si volgeranno altrove periranno. In Matteum, Omelia 49. Il 20 aprile 1996, a Cambridge, nel Massachusetts, alcuni evangelici redassero una confessione di fede sulla necessità di un ritorno all'Evangelo, in merito all'erosione dell'adorazione cristocentrica. Espressero la seguente testimonianza. Ovunque nella Chiesa l'autorità biblica sia andata persa, Cristo sia stato spostato dalla sua centralità, il Vangelo distorto o la fede pervertita. Ciò è sempre stato per un solo motivo. I nostri interessi si sono sostituiti a quelli di Dio e si fa l'opera sua a modo nostro. La perdita della centralità di Cristo nella vita della Chiesa oggi è un fatto diffuso e motivo di dispiacere. E questa perdita che permette che il culto di adorazione si trasformi in uno spettacolo di divertimento. La predicazione del Vangelo sia una presentazione di prodotti, la fede in una tecnica, l'agire bene in una sentirsi bene riguardo a se stessi e la fedeltà in un meccanismo che garantisca il successo. Come risultato, Dio, Cristo e la Bibbia valgono sempre meno e incidono sempre meno nelle nostre vite. Dio non esiste per soddisfare le nostre ambizioni umane, i nostri desideri, i nostri appetiti e nemmeno i nostri interessi spirituali privati. Nella nostra adorazione dobbiamo centrare la nostra attenzione su Cristo più che sulla soddisfazione dei nostri bisogni personali. Nell'adorazione Dio è sovrano. Noi non lo siamo. La nostra preoccupazione deve essere per il regno di Dio, non per i nostri imperi, la nostra popolarità o il nostro successo. Un elemento distintivo del cristiano consiste dunque nel dare la precedenza a Dio, alla testimonianza di Cristo e al suo regno, ovviamente con una vita vissuta per Lui. L'Apostolo Paolo ha espresso questa peculiarità del cristiano con le seguenti parole: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. 2 Corinzi 5.1-4.15. Un cristiano è colui che vive per Cristo, sia quando lavora o si riposa, quando cammina o rimane fermo, quando mangia o digiuna, quando fa sesso o non lo fa. A un cristiano non importa quello che fa di giusto, a lui interessa compiere la volontà di Dio. Una fede cristocentrica mette Cristo al primo posto non solo dottrinalmente, ma anche nella quotidianità della vita, perché non esiste una vera dottrina cristiana se questa non ha un riscontro pratico. 2. Il secondo elemento che distingue un cristiano è l'essere nato di nuovo. Giovanni 1, 12-13. Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono... La nuova nascita è quell'esperienza spirituale fatta con responsabilità e mediante la quale si diventa figli di Dio. Dopo 2000 anni di storia, occorre ancora chiarire che la nuova nascita non si ottiene mediante un'eredità spirituale dei genitori, cioè quelli nati da sangue, né mediante le buone opere, cioè mediante la volontà di carne, né mediante un'autorità ecclesiastica, cioè mediante la volontà d'uomo, ma la nuova nascita si realizza solo mediante un atto di fede. Nascere di nuovo non consiste in un atto fisico, ma in un'esperienza spirituale. La prima nascita ti fa diventare membro di una razza perduta, la seconda membro di una razza redenta. La prima nascita ti conferisce una natura corrotta e peccaminosa perché sei stato formato nel peccato e concepito nell'iniquità. La nuova nascita ti dona una nuova vita rendendoti partecipe della natura divina. Sulla base della nascita naturale tu nasci peccatore perduto. In virtù della nascita spirituale, tu rinasci santo e salvato. Le due nascite sono ben separate e distinte. È la linea divisoria fra paradiso e inferno. Poiché la fede è aderire a una testimonianza, ciò significa che, se ti ritieni un cristiano, non è perché sei stato battezzato da piccolo, ma perché hai realizzato per fede quell'esperienza spirituale che si chiama nuova nascita. Il cristiano è colui che con un atto di consapevolezza, per aver posto la propria fede in Cristo, riceve lo Spirito Santo e diventa così partecipe della stessa natura di Dio. Se egli prima sapeva alcune cose su Gesù, mediante lo Spirito Santo, acquisisce in Gesù Cristo una conoscenza tutta nuova, si rende conto che senza Gesù non conoscerebbe nulla di Dio, dato che solo tramite il Figlio di Dio è possibile conoscere il Dio Trino. Se sei un cristiano, chiederai di essere battezzato per identificarti con tutti coloro che sono nati di nuovo e per testimoniare la tua nuova nascita con quest'atto. È vero che il battesimo non fa cristiano nessuno, ma fa parte del comportamento di chi ha creduto in Gesù e lo accetta come il padrone della sua vita. Così non ti puoi definire cristiano se non sei stato battezzato in acqua. È vero che il battesimo in acqua non ti fa nascere di nuovo, ma se sei nato di nuovo in età adulta e consapevole, non puoi esimerti dal farti battezzare. Il quarto Evangelo racconta di un eminente maestro di religione di nome Nicodemo, un uomo buono dalla mente aperta, il quale una notte va a trovare Gesù per rivolgergli alcune domande. Ma quando ancora sta pronunciando le sue frasi preliminari, Gesù lo interrompe e va dritto al punto essenziale, dicendogli che doveva nascere di nuovo. Queste erano parole che, anche per un teologo giudeo con elevato grado di istruzione come Nicodemo, avevano un suono assai poco familiare. Così, piuttosto perplesso, Nicodemo chiede a Gesù come sia possibile nascere di nuovo. Ebbene, se un uomo religioso e istruito ha posto una simile domanda, sono convinto che ancora oggi ci sia molta gente che, come Nicodemo, si domanda cosa si intenda con il termine nuova nascita. Gesù ha usato questa metafora o questa allegoria per descrivere la necessità di un cambiamento, di un rinnovamento radicale, e non vi era modo migliore per illustrarlo. La Bibbia ha diversi modi per descrivere questo cambiamento, ma la nuova nascita, o la seconda nascita, forse è il modo più chiaro. Senza alcun dubbio è questo il centro del messaggio del Nuovo Testamento, ma purtroppo dobbiamo dire che l'insegnamento della Chiesa tradizionale, basato su un'interpretazione sbagliata e che viene comunemente adottata e accettata, ha oscurato il messaggio di Cristo e ridotto la religione cristiana a una lotta morale o ad un impegno a seguire l'esempio di Gesù con l'aiuto della preghiera. E con una vita che sia abbastanza religiosa, ma qualsiasi cosa che non sia l'offerta di essere riportati allo stato iniziale e di essere creati di nuovo è uno pseudo-cristianesimo, o meglio, un cristianesimo addolcito. Dobbiamo ricordarci sempre che, prima di essere un codice morale, il cristianesimo è un buon annunzio, e per molti la nuova nascita non può essere che traumatica, soprattutto per coloro la cui etica si è cristallizzata in comportamenti di vita e di pensiero apparentemente cristiani. Il trauma, per esempio, può consistere nel dover negare quello che fino ad ora si era affermato e sostenuto per arrivare a dichiarare ciò che fino ad ora si era messo in ridicolo e negato. Si tratta certamente di un processo penoso e costoso che può richiedere anni e anni per portare a una vita equilibrata e sana. Anche se la nuova nascita spirituale avviene in un attimo, nella vita pratica essa si manifesterà molto lentamente nel corso degli anni. Anche se sei un cristiano, la tua vita sarà punteggiata da molte cadute e da molti scoraggiamenti, tanti quanto ne affronta il bambino quando inizia a stare in piedi, a camminare, a correre o a nuotare. Vi saranno periodi di crescita squilibrati, casomai tutti da una parte, un entusiasmo immaturo, o la pretesa di una conoscenza più vasta di quanto lo sia in realtà, esattamente come capita a qualsiasi persona che sta crescendo. A volte vi saranno dubbi, interrogativi e perfino ribellioni, come quelle dell'adolescente, che deve mettere alla prova le sue convinzioni e stabilire la propria identità, ma sono esperienze di un cristiano che sta maturando. Uno degli elementi distintivi di un cristiano non è la perfezione, ma il desiderio della santità come risultato della nuova nascita. 3. Il terzo elemento che distingue un cristiano è il cambiamento avvenuto nella sua vita al momento della rinascita. 2 Corinzi 5, 14-17. Da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. In una società moralizzata dal cristianesimo, Gesù Cristo non è una novità. Conoscere Gesù Cristo, la sua incarnazione, la sua opera di redenzione, è certamente un privilegio, ma tale conoscenza è un'arma a doppio taglio. Può creare nell'intimo della persona la convinzione di essere cristiana, nonostante questa di fatto non lo sia. Di conseguenza, elemento caratterizzante di un cristiano è un manifesto cambiamento di vita. Quando una persona si riconosce peccatrice perduta, degna di essere respinta dalla presenza di Dio e pone con un atto incondizionato la sua fede nell'opera di Gesù, inevitabilmente vede cambiare la propria vita. La ragione è molto semplice. Dal momento che nessuna religione può rendere cristiano qualcuno, qualsiasi professione di fede rimane una condotta religiosa liberamente scelta. Anche se tu sei cresciuto in un ambiente definito cristiano, nel giorno in cui diventi figlio di Dio, il tuo rapporto con Gesù, con i fratelli e con il mondo cambia, deve cambiare. Prima di essere cristiani, i primi discepoli erano ebrei, credevano nell'unico Dio vero, seguivano la giusta religione e leggevano la parola di Dio, ma non erano cristiani. Il cristianesimo non è una religione, ma una nuova vita. Si può essere cattolici, protestanti, ortodossi, buddisti, maomettani, senza essere costretti ad esprimere la fede della propria religione nello stesso modo. Nel cattolicesimo, per esempio, troviamo un fedele che si nutre della fede apostolica e della meditazione della scrittura, mentre un altro centra la sua pietà sulla mariologia e sulla devozione a un santo. Di conseguenza il rosario è per lui più importante della Bibbia e le dichiarazioni di Nostra Signora di Fatima hanno più valore del Vangelo. Ambedue sono cattolici romani approvati dalla loro religione. Per questo il cattolico può scegliere il menù che più gli conviene. Per un cristiano non è così. Egli non ha una condotta religiosa liberamente scelta, ma una condotta religiosa psicologicamente condizionata dalle parole di Gesù. Il cristiano sa che la sua resa non è temporanea ma dura per tutta la vita, e Cristo ha preso possesso di tutto il suo essere. Corpo, anima, spirito. Lo slogan "cristiani si diventa e non si nasce" giudica tutti coloro che non hanno una vita nuova e dicono di essere cristiani. Se sei un cristiano, in un momento preciso della vita, hai deciso di adeguare il tuo modo di vivere al volere di Dio. Se non è così, non sei un cristiano. La vita di un cristiano cambia. Se non cambia, non è un cristiano. Per un cristiano, Cristo è l'unica soluzione a tutti i suoi problemi e la risposta chiave in ogni situazione. È il soccorso a tutti i suoi bisogni. È la pienezza per la vita presente e per l'eternità, e non uno dei tanti santi che lo possono aiutare. Pur vivendo ancora su questa terra, come cristiano godi di una gioia divina e, sapendo che sei stato giustificato per fede, hai pace con Dio con il quale hai intrecciato, mediante suo Figlio Cristo Gesù, una relazione nuova. Se sei un cristiano, la parola di Dio, cioè la Bibbia, è per te il cibo quotidiano, l'unica autorità e regola da seguire per esprimere la tua fede. La volontà di Cristo, espressa nelle Scritture, regola la tua vita in ogni dettaglio. Se sei un cristiano, sei trasformato mediante il rinnovamento operato in te dallo Spirito Santo. Ami ciò che Dio ama e odierai ciò che Dio odia. Sentirai il bisogno di ricercare la comunione con persone diverse da quelle frequentate prima. Persone che hanno vissuto la tua stessa esperienza. Come cristiano ricordati che hai il privilegio di soffrire per Cristo, perché ti è stato dato non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Come cristiano ti sei reso conto che non sei più solo perché ami in modo nuovo tutti coloro che, come te, sono diventati figli di Dio per la fede in Cristo. Di conseguenza, desideri la loro compagnia e la chiesa locale nella quale ti rechi costantemente è per te motivo di benedizione, di crescita, di servizio, di gioia e di paziente e istruttiva sofferenza. Con il principio di vita totalmente nuovo infuso in te, la tua vita è caratterizzata dalla santità e dalla preghiera. Come cristiano ti disfi della falsità, dell'orgoglio e dell'incredulità, per rivestirti di verità, di umiltà e di fede. Per amore di Cristo rinneghi l'odio e l'egoismo per esprimere amore e generosità, rigetti l'immoralità e la sregolatezza per vivere rettamente e sobriamente, rinunci alla pigrizia per essere operoso, lasci l'ignoranza per crescere nella conoscenza di Cristo, abbandoni l'insoddisfazione per abbracciare la contentezza, volti le spalle al rancore per perdonare, rifiuti l'ansia per accogliere la pace interiore, sei scrupoloso nella scelta dei tuoi amici e cauto nell'evitare le occasioni di peccato e di male. Come cristiano hai l'ardore di manifestare la tua fede con delle opere che sono in armonia con la verità creduta, e realizzi che una nuova luce brilla nella tua mente, una nuova forza. Muove la tua volontà, nuovi oggetti attirano i tuoi sentimenti. Se non è così, come puoi definirti cristiano? Se ami e vivi come gli increduli e i religiosi formalisti, cosa ti distingue perché tu possa essere chiamato e riconosciuto cristiano? 4. Il quarto elemento che distingue un cristiano è l'amore per i figli di Dio. 1 Giovanni 3,14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Quando una persona diventa cristiana, ama Gesù Cristo perché è diventato il suo unico Signore e Salvatore. Ma scopre in sé un'altra attitudine che non procede dal proprio io. Prova un nuovo impulso affettivo ed amore verso i figli di Dio. Queste persone che prima erano estranee e che giudicava strane o addirittura pazze, improvvisamente diventano importanti e preziose. Un cristiano non vive da solo, non è indipendente né è un'isola, ma esprime la sua fede assieme a quelli che, come lui, sono nati di nuovo, nei quali ripone fiducia e affetto, essendo conscio dell'amore e della fiducia che Dio ha verso di loro. Un cristiano sente la necessità di trovarsi con i figli di Dio, diventati tali mediante la fede salvifica in Gesù, perché ha una fede in comune con loro. Chi è cristiano avverte che l'affetto verso gli altri cristiani è maggiore di quello che prova per i suoi familiari e amici, perché in lui scorre la stessa vita che è in loro. Il cristiano ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro, 2 Timoteo 2,22. Se sei un cristiano, o ti definisci tale, invocherai il Signore, cioè Gesù Cristo, e non altre persone, compresa Maria, la madre di Gesù, e i santi. Se sei un cristiano, ti distinguerai anche da chi non lo è, perché esprimi la tua fede in una chiesa locale i cui membri pregano e rendono il culto solo a Dio. Persone nate di nuovo, mediante un atto di fede in Gesù soltanto, il tuo amore infatti non può essere disgiunto dalla verità. Alcuni si ritengono cristiani solo perché provando simpatia frequentano ogni gruppo religioso, ma il vero amore che procede da Dio è tale solo quando si esprime nella verità, altrimenti ogni culto diventerebbe lecito, proprio perché hai una natura nuova, le tue facoltà originali sono arricchite, nobilitate e potenziate, e l'amore che nutri nei confronti degli altri cristiani sarà completo, reale e meraviglioso. Questo amore divino infuso in te rinnova tutto il tuo essere e trasforma il tuo pensiero, purifica i tuoi desideri, ti libera dalla paura della morte. L'amore che hai per i figli di Dio ti libera dall'odio e dai rancori. Grazie a questo, normalmente godrai della salute fisica, anche perché, assieme con i seguaci di Cristo, vivrai temperatamente, sobriamente, piamente e saggiamente. L'amore e la vita comunitaria con i figli di Dio è la risposta a tanti nostri problemi di salute. Lo sapevi? Vivere da cristiano è un bene prima di tutto per noi e poi una benedizione per altri. Una domanda si impone a questo punto. Cosa significa amare il fratello? La risposta è molto difficile e dobbiamo diffidare di coloro che hanno una formula segreta. Tuttavia, se l'uomo parla di amore è perché Dio è amore. 1 Giovanni 4, 8, 4 e 16. Così, mentre l'amore costituisce l'essenza del Dio Trino, riguardo al cristiano l'amore è qualcosa di ricevuto. Infatti è scritto che l'amore è sparso nel cuore del credente per lo Spirito Santo. Romani 5, 5. Perché diciamo che Dio è amore? Da dove abbiamo capito che Dio ci ama? Dal fatto che ci ha creati. Perché godiamo di ottima salute? Perché provvede ai nostri bisogni? Perché risponde alle nostre preghiere? Per Giovanni non sono queste le ragioni. Un credente dirà che Dio è amore perché ha dato suo figlio, ma lo stesso apostolo non la vede così. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 1 Giovanni 4:9. Anche Paolo dice la stessa cosa. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5:8. Per Giovanni e Paolo l'offerta di suo figlio è una dimostrazione dell'amore divino. Se Dio ha dimostrato il suo amore, in che cosa consiste dunque l'amore? Ecco cosa risponde Giovanni. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 1 Giovanni 4:10. L'amore di Dio consiste quindi nell'averci amati per primo, nell'aver preso l'iniziativa di amarci. Dio non ha aspettato che noi lo amassimo, che noi lo cercassimo, ma Egli ha dato il suo figlio prima ancora che noi pensassimo a lui. L'amore è quindi l'iniziativa di amare, e amare i fratelli vuol dire prendere la decisione di occuparsi di loro per far loro del bene. Se sei un cristiano non assomiglierai a certi autobus dove trovi scritto tutto pieno o esaurito, non sarai talmente indaffarato da non aver tempo per gli altri. Anche il lavoro per il Signore può essere così esteso da dimenticare di amare i figli di Dio. Stai attento a non amare l'opera di Dio in quanto tale, essa deve essere invece la dimostrazione che ami Dio. Il vero cristiano è colui che vive al servizio degli altri. Tu puoi aver raggiunto l'apice di un lavoro svolto per Dio, ma fallire nel contempo il vero obiettivo. Un elemento distintivo di un cristiano è proprio l'amare i fratelli in fede come fece Gesù. Egli fu un uomo attivissimo, ma era sempre disposto per il prossimo. 5. Il quinto elemento che distingue un cristiano è la confessione di fede in Cristo. Romani 10, 9-11. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. È impossibile essere. La nuova vita si deve manifestare ovunque, qualunque essa sia. Una vera fede produce il desiderio di confessarla. Ciò non significa che un cristiano debba essere a tutti i costi un missionario in terre lontane o uno che esercita la professione di predicatore. Ma, appena ne ha l'opportunità, egli testimonierà della sua esperienza di fede e dell'amore di Dio. Un cristiano non presenterà una religione né la sua fede e neppure si vergognerà di testimoniare di Gesù Cristo e della fiducia che ha posto in Lui. Il cristiano non è colui che è convinto di seguire la verità solo perché crede di avere ragione, perché molti sono convinti di avere ragione senza per questo averla. Un cristiano non crede che la sua fede sia quella giusta solo perché è convinto di essere nel vero, anche perché tutti i religiosi sono convinti della validità della loro fede. Un cristiano non è certo delle sue convinzioni perché una convinzione non rende vera una cosa falsa. Ma il cristiano è colui che crede che la verità sia Gesù sulla base della dichiarazione rilasciata da Gesù stesso, è colui che a lui, se Gesù non fosse la verità, per il cristiano non vi sarebbe alcuna speranza, né in questa vita né in quella futura. Se Gesù non fosse la verità, per chi ha posto fede in lui tutto diventerebbe enigmatico e gli inciamperebbe in interrogativi senza fine. E sarebbe la persona più disperata e vuota di questo mondo. Il cristiano è dunque colui che in Cristo, e solo in Cristo, ha trovato una volta per sempre la risposta e la soluzione a ogni interrogativo. Se sei un cristiano non sarai fiero di professare di appartenere a una religione e non cercherai di difenderla a qualsiasi costo, ma il tuo più profondo desiderio è e sarà quello di testimoniare agli altri che il Signore Gesù Cristo non solo è la ragione della tua vita, ma è la tua stessa vita. Il che vuol dire che se tu non avessi conosciuto Cristo nulla, ma proprio nulla, avrebbe senso. Che senso avrebbe vivere e soffrire per poi alla fine morire e sparire nel nulla? Che senso avrebbe sprecare energie e affetti per cose che alla fine si devono lasciare? Siamo proprio sicuri che coloro che pongono fine alla loro vita con il suicidio siano del tutto fuori di testa? o forse, hanno avuto un attimo di lucidità nel quale, essendo senza Cristo, hanno compreso la nullità della nostra esistenza. Ecco perché se sei un cristiano parlerai di Cristo a più non posso, perché la fede cristiana è la risposta per tutti i depressi, per gli scontenti, per coloro che non trovano una ragione valida per vivere. Anche le chiese evangeliche, cioè quelle chiese che si rifanno all'autorità delle scritture e hanno una fede cristocentrica e apostolica, sono sempre più dominate dallo spirito dell'epoca nella quale vivono. Lo dimostra il fatto che il significato delle parole bibliche da loro usate ha perso il suo valore originario. Una di queste parole, per esempio, è il verbo evangelizzare, con il quale spesso molti credenti sedicenti cristiani intendono il dover partecipare alla loro fede e lasciare che essa venga confrontata con altre fedi, che un figlio di Dio sia pronto a confrontarsi con il prossimo e accetti. Messo che il proprio credo sia messo in discussione, è buono e auspicabile, ma chi ha posto una vera fede salvifica, fede in Cristo, è consapevole che la persona di Gesù non è negoziabile, né può essere messo a confronto con altri fedi. Gesù ha fatto delle affermazioni che non appartengono all'ambito umano, come quando, ad esempio, disse di essere la via, la verità e la vita. Simili affermazioni possono essere accettate o rifiutate, ma non discusse. Nel momento in cui discuti non sei un cristiano, come non lo sei nel momento in cui relativizzi le sue parole. Un cristiano è colui che crede che Gesù sia unico, perciò non si può affermare che Gesù ha insegnato una morale sublime e poi rifiutare di prendere sul serio le dichiarazioni che egli ha emesso in merito a se stesso. Vi sono milioni di persone che dichiarano di credere in Gesù ma non credono alla sua divinità, alla sua unicità, alla sua radicalità, al suo totalitarismo. Tra gli esseri umani Gesù non si confronta con gli altri, ma si contrappone a loro. Egli è unico, unico come è unico Dio. Se riduciamo Gesù Cristo alle proporzioni di un uomo tra gli uomini, egli cessa immediatamente di essere un uomo onesto. Dopo 2000 anni di storia, noi uomini possiamo anche farci un'immagine sbagliata di Gesù, ma i suoi contemporanei hanno per sempre avallato le credenziali della sua divinità e unicità. Lo hanno riconosciuto come Dio i discepoli increduli, i nemici, i demoni, Satana e gli angeli. Gesù è stato l'unico giudeo che i giudei abbiano adorato come Dio, l'unico giudeo al quale i giudei abbiano rivolto preghiere come Dio, l'unico giudeo riconosciuto e predicato come Dio, l'unico essere umano a non aver mai commesso né mai confessato peccato. I suoi contemporanei, sia amici sia nemici, non hanno trovato in lui nessuna colpa. Gesù non è vissuto come un santo, ma come Dio, tre volte santo. Gesù non è stato crocifisso come un uomo di Dio, ma come Dio che si è fatto uomo. Come disse Byron, se mai un uomo è stato Dio, o Dio è stato uomo, Gesù è stato ambedue. Se sei un cristiano, con orgoglio annuncerai la tua fede cristocentrica e apostolica. 6. Il sesto elemento che distingue un cristiano è il suo odio per il peccato e l'amore per la giustizia. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. 1 Giovanni 3, 2, 5 e 18. In questo mondo vi sono solo due grandi famiglie, i figli di Dio e i figli del diavolo. I figli di Dio si distinguono non tanto per il loro parlare, meno, anche se ovviamente non seguono le espressioni volgari e improprie della loro generazione, meno ma piuttosto per la condotta. Essi amano tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili e tutte le cose che sono di buona fama. E se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensano a queste cose e le fanno. In definitiva, uno degli elementi distintivi di un cristiano sono la santità e la giustizia. Va ricordato che è giusto e santo non ciò che è ritenuto tale dagli uomini e dalla religione, ma tutto ciò che ha ordinato Dio. Il peccato non è trasgredire la morale della società e della religione, ma è la violazione della legge di Dio. Infatti, mentre per un musulmano il giorno di riposo è il venerdì, per l'ebreo il sabato, per il cattolico romano invece è la domenica, Questo dimostra che la propria religione è opinabile. Per la nostra natura corrotta il peccato, cioè la trasgressione della volontà di Dio, è un'esperienza quotidiana, ma nel comportamento di un cristiano il peccato diventa un incidente e non è più una prassi normale come prima. Il cristiano è colui che ha lo Spirito di Dio, e la prima caratteristica dello Spirito di Dio è la santità, e per questo è chiamato Spirito Santo, un aggettivo che è diventato un sostantivo. Un vero cristiano non è solo chi è santo, ma è colui che ama la santità. Di conseguenza non è solo chi non pecca, ma colui che odia il peccato. Lo Spirito Santo che abita in lui lo spinge ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Dio odia, perché non esiste vero amore se non vi è una vera avversione verso ciò che è sbagliato. Desiderare di compiere ciò che è giusto e buono nel cospetto di Dio e odiare il peccato è una peculiarità del cristiano, perciò chi non ama e non ricerca la santificazione non può essere un cristiano e non ha lo Spirito Santo. I 10 comandamenti dati da Dio sul Monte Sinai sono, senza dubbio, il riassunto della sua volontà. In essi possiamo trovare il divieto di inginocchiarsi davanti a qualsiasi tipo di statua, di pregare e venerare Maria e i santi, di confessare i propri peccati a un uomo. Se sei un cristiano, amerai compiere la volontà di Dio espressa nella sua parola e rifiuterai anche ciò che Dio odia. Sull'aspetto di odiare il peccato è necessario aggiungere alcune parole. Sta scritto che il fondamento di Dio è costituito da due pilastri. Il primo è: il Signore conosce quelli che sono suoi, e il secondo: si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Quindi, il comandamento di Dio, rivolto ai suoi figli, non è solo comportarsi in modo santo, ma anche ritirarsi dall'iniquità. Non vi è oggi comandamento così importante, soprattutto in un clima di riconciliazione, di unione, di dialogo interreligioso, di ecumenismo. Un simile ordine suona stonato. Dobbiamo riconoscere che il peccato non si presenta sempre odioso e nelle forme più ripugnanti. I religiosi ebrei al tempo di Gesù erano un esempio di condotta religiosa. Pregavano, leggevano le scritture, erano presenti ai culti, pagavano la decima, facevano le offerte, insegnavano la parola di Dio, erano impegnati nell'evangelizzazione, eppure sono stati duramente giudicati da Gesù come ipocriti. È molto facile vedere un simile giudizio rivolto soltanto agli altri. Eppure anche oggi molti credenti pregano, leggono le scritture, sono presenti ai culti, pagano la decima, fanno le offerte, insegnano la parola di Dio, sono impegnati nell'evangelizzazione, non potendo comunque esimersi dal giudizio d'ipocrisia. Nessuno può erigersi a giudice, perché chi siamo noi per giudicare il prossimo dal momento che solo Dio conosce quelli che sono suoi? Ma se i figli di Dio non si ritraggono dall'iniquità, se non camminano mostrando amore per Dio con tutto il loro cuore, la loro mente, la loro forza e la loro volontà, allora non stanno costruendo sul fondamento di Dio. E poiché il fondamento è quella struttura morale o di pensiero che serve da base per ogni altra cosa, tutto ciò che costruiscono è sbagliato e destinato ad essere giudicato. Chi afferma di essere cristiano e non rispetta il principio della separazione contraddice la sua fede. È vero che noi non possiamo conoscere coloro che appartengono a Cristo, è vero che solo Dio conosce il cuore delle persone, ma è giunto altresì il momento di dare valore anche al secondo pilastro che costituisce il fondamento di Dio. Ritirarsi da ciò che Dio non approva. Non è sufficiente essere credenti per avere la vita eterna. Gesù ha dichiarato che l'inferno sarà popolato di credenti. Se vogliamo avere una garanzia di essere dei veri cristiani, dobbiamo non solo verificare la nostra professione di fede, ma soprattutto controllare quello che rifiutiamo di ciò che la vita ci offre. Spesso un atto di rifiuto vale più di molte professioni di fede. L'8 dicembre 1963 ero in un ospedale e rifiutai di baciare lo stensorio che il sacerdote mi aveva posto davanti. Tale atto fece più risonanza nel mio paese che il mio cammino irreprensibile. È vero che solo Dio conosce il nostro cuore, ma rifiutare atti religiosi contrari al volere di Dio conferma un elemento distintivo di un cristiano. 7. Il settimo elemento distintivo di un cristiano è che possiede la testimonianza dello Spirito. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Romani 8 e 16. Prima di prendere in esame che lo Spirito Santo parla al credente, è necessario fare alcune premesse in merito alla persona e all'opera dello Spirito di Dio. Da sempre i cristiani hanno come loro divinità tre persone sussistenti in una unica natura divina, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Di queste tre persone si è detto tanto come tante sono le eresie in merito. Per quello che riguarda Gesù, per esempio, vi è l'eresia dell'ebionismo, che vede in Gesù il figlio naturale di Giuseppe e Maria. Vi è l'eresia del docetismo, che sostiene che Cristo possieda solo la natura divina. Vi è l'eresia dell'arianesimo, che vede Gesù una creatura di rango superiore alle altre ma generata e inferiore al Padre. Vi è l'eresia del monofisismo, che afferma che in Cristo esiste una sola natura, cioè quella divina. In merito alla persona dello Spirito Santo vi sono opinioni molto confuse perché l'ostacolo più grande sta nel ritenere lo Spirito Santo una persona uguale al Padre e al Figlio. Infatti, molti di coloro che nei loro scritti fanno riferimento allo Spirito di Dio danno l'impressione di concepirlo più come un influsso che si diffonde nella Chiesa, oppure come un modo di agire divino, o una influenza o una forza impersonale di Dio, che non come una persona. Inoltre, i termini usati per parlarne denotano spesso una certa imprecisione di pensiero e di opinione teologica. La ragione di tanta confusione sta nel fatto che da un lato utilizziamo la parola persona per indicare chi ha una natura umana, chi possiede un corpo materiale e un'anima immateriale. Dall'altro lato parliamo dello spirito dei nostri tempi o di uno spirito collegiale, modi di dire questi, che danno il significato neutrale alla parola spirito. Proprio per questo la persona dello Spirito Santo è la più sconosciuta e dimenticata. Perciò è importantissimo dire e ribadire che lo Spirito Santo, cioè quello che Gesù ha definito il Consolatore, è una persona a tutti gli effetti, come sono persone il Padre e il Figlio. Che lo Spirito Santo sia una persona e non una forza impersonale di Dio, lo dimostra il suo modo di agire o la sua opera. Infatti lo Spirito di Dio convince gli uomini di peccato, rigenera l'uomo, viene ad abitare nel credente, lo introduce nella Chiesa, produce i frutti nella vita del credente, conduce chi ha posto fede in Cristo, fa comprendere la parola di Dio, viene in aiuto alla debolezza del credente, nella preghiera, dà la capacità di amare e testimonia di Cristo. Nulla di più normale, quindi, che il cristiano sia colui che è consapevole di possedere la testimonianza di appartenere a Dio mediante lo Spirito di Dio. Per non cadere in autoconvincimenti dannosi e fanatici, occorre anche sottolineare che tutti abbiamo delle convinzioni profonde che riteniamo provenienti da Dio, ma che a volte scopriamo non essere tali. Eppure, per ciò che riguarda l'essere figlio di Dio, nessuno può esprimersi in merito se non per mezzo dello Spirito Santo. È vero che vi sono persone che affermano di essere figli di Dio o cristiane e non lo sono, ma se esiste una testimonianza falsa, ciò significa che venne. È una vera. Infatti, nel cattolicesimo il credente è convinto di essere un figlio di Dio solo perché glielo ha dichiarato la sua religione, ma non possiede una testimonianza interna da parte di Dio. Così, un cristiano è colui che, oltre le prove esterne che abbiamo esaminato, ha nel proprio cuore la testimonianza dello Spirito che gli dichiara che è e sarà per sempre un figlio di Dio, perciò egli sa e realizza di avere ricevuto la caparra dello Spirito Santo come anticipo della completa salvezza. Infatti la parola di Dio si riferisce a tre salvezze, quella passata, cioè dalla perdizione eterna, quella presente, cioè dalla corruzione del peccato, e quella futura, quando chi è diventato figlio di Dio sarà rivestito di un corpo nuovo. Questa molteplice salvezza il cristiano la riceve mediante l'accettazione della riconciliazione con Dio per mezzo della sola opera di Cristo compiuta una volta per sempre. Egli sa che i suoi peccati passati, presenti e futuri sono perdonati, perché dove ci è perdono di queste cose, non ci è più bisogno di offerta per il peccato, Ebrei 10:18. Il cristiano si rende conto di essere stato salvato per grazia e per questo, come atto di riconoscenza, rifiuta ogni forma religiosa, sbagliata sia che provenga dal cattolicesimo sia dal protestantesimo, e vive una vita santa, al servizio di Gesù Cristo come unico Signore. Se ti definisci cristiano e vivi senza queste esperienze, puoi mettere in dubbio di possedere la giusta fede che salva. 8. L'ottavo elemento che distingue un cristiano e che comprende le scritture. Giovanni 5, 37-38. La sua voce, voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. La parola di Dio rimane certamente uno dei più grandi doni fatti all'uomo dal suo Creatore. E benché essa sia santa, giusta, buona, l'uomo, nonostante le buone capacità donategli da Dio, riesce a farne uno strumento malvagio. Lo dimostra le molteplici religioni che sostengono di basarsi sulla parola di Cristo, come per esempio i testimoni di Geova, i quali, pur citandola del continuo, ne negano il messaggio principale, e cioè che l'unigenito Figlio e lo Spirito Santo non sono Dio e non sono partecipi della natura divina del Padre. Così pure il cattolicesimo romano, che pur riconoscendo il valore della parola di Dio, ritiene la tradizione di ugual valore di questa, col finire poi di stabilire dottrine e dogmi che sono inesistenti nelle sacre scritture, quali per esempio il Purgatorio o Maria, ritenuta immacolata nel concepimento e nella vita. Perciò ogni volta che si elabora le proprie idee, i propri schemi, fino a portarli ad una superficiale armonia con la Bibbia, si falsifica la parola di Dio. Ogni volta che si spiega la parola di Dio senza tener presente verità opposte, se ne distorce il senso. Ogni volta che non si dà alla parola di Dio l'autorità che deve essere nella nostra vita, la si disprezza. E ogni volta che una tradizione, pur iniziando da un fondamento biblico, si allontana dallo spirito della Scrittura, si annulla la parola di Dio. E, molto deprimente che tanti che si professano e si chiamano cristiani, danno così poca attenzione alle affermazioni della rivelazione e così tanta alle dichiarazioni degli uomini moderni. La parola di Dio può essere anche rifiutata, e questo succede quando non si permette ad essa di convincerci, mediante lo Spirito Santo, di peccato. Come può essere rigettata quando coloro che hanno ricevuto il messaggio non sono modellati da essa? E poi tornano ad essere soggetti all'insegnamento del mondo. Che dire poi di quelli che, pur avendo la parola di Dio, la trascurano nel leggerla e studiarla, coloro che la dimenticano volontariamente, e coloro che non pongono fede in essa? Ho preso in esame alcuni atteggiamenti che si hanno nei confronti della parola di Dio per dimostrare innanzitutto che se la Sacra Scrittura non è capita, il più delle volte è dettato da un cuore che non desidera credere in Cristo. Che dire allora di coloro che vorrebbero comprendere la parola di Dio e non ci riescono? Qual è la causa, qual è la colpa qualora questa esistesse? L'uomo che non ha ricevuto lo Spirito Santo mediante la nuova nascita non ha nessuna colpa se non comprende la parola di Dio, perché il solo ed unico interprete delle scritture è lo Spirito Santo. Perciò chi non possiede lo Spirito di Dio, mediante un atto di fede in Cristo, non possiede neppure la giusta comprensione e interpretazione delle parole di Cristo. Premesso questo, va da sé che un cristiano è sicuro di essere tale quando comprende la parola di Dio. Questo elemento distintivo di un cristiano mette in evidenza una granitica prova che le scritture provengono da Dio, perché se nessuno può comprenderle con la propria mente, significa che la Bibbia non è stata scritta da uomini con il loro sapere. I detrattori della fede cristiani mettono enfasi che la Bibbia è stata scritta da uomini, e questo è vero, ma quello che volontariamente vogliono ignorare è che il messaggio contenuto nella parola di Dio non può essere il prodotto della mente umana, e lo dimostra il fatto che il concetto di una salvezza per grazia non esiste in nessuna religione e non riposa nella mente dell'uomo. L'uomo può afferrare nozioni storiche o geografiche della Bibbia, può anche predicare bellissimi sermoni basati sulla Bibbia, ma il suo messaggio spirituale non può essere compreso dalla mente umana. Al tempo di Gesù, gli studiosi delle scritture, scribi e farisei, le leggevano con cura, ma la loro comprensione era sigillata alla loro mente religiosa e incredula. Da notare che anche Satana stesso conosce e cita la parola di Dio, senza capirne però il senso. Ho notato con gioia che le persone una volta convertite gioiscono per lo Spirito, perché possono finalmente comprendere le parole di Cristo, e questo testimonia che il cristianesimo è una rivelazione, e questa rivelazione penetra nella mente e nel cuore dell'uomo solo quando si diventa figli di Dio e si ha lo Spirito Santo. Un elemento che distingue il cristiano da un religioso formalista è che trova gioia e piacere nel leggere e studiare la parola di Dio perché la comprende e per questo desidera metterla in pratica. La coscienza di un cristiano è prigioniera della parola e la parola di Cristo trasforma la sua mente. Se sei un cristiano, leggerai la parola di Dio e la comprenderai, diversamente devi sospettare della tua fede. 9. Il nono elemento che distingue un cristiano è che si riconosce straniero e pellegrino. Ebrei 11 e 13. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Un cristiano abita in questo mondo, partecipa alla vita sociale come tutti gli uomini, ma ha una caratteristica. Si sente straniero e pellegrino sulla terra. Ogni paese straniero è la sua patria è per lui come un paese straniero. Mangia, beve, dorme, si sposa come tutti gli altri, possiede dei beni come tutti, ma costantemente ricorda a se stesso che egli è solo un amministratore di quello che possiede. Non dimentica di essere di passaggio e le cose di questa vita, come la salute, il denaro, le capacità naturali, le considera come doni con i quali glorificare Dio e fare del bene al prossimo. Gode della vita come nessun altro, ma contemporaneamente desidera andare in cielo sapendo che è molto meglio. Il cristiano non vive aspettando la morte, ma attende con brama la corona che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questa speranza rende creativo il presente, rende ogni momento della sua vita importante, perché è cosciente che ha solo la presente esistenza per glorificare Dio. Il cristiano sa che la vita è come una moneta. La si può spendere come si vuole, ma una volta sola. Questa drammatica realtà, drammatica perché non si può più tornare indietro, potrebbe anche schiacciarlo, ma il cristiano riposa e vive serenamente ogni istante della sua vita, perché è cosciente che il suo Dio trino è in grado di condurlo al porto desiderato nonostante le sue manchevolezze. La morte, per il cristiano, ha perso il suo pungiglione, perché non la considera la tomba della sua esistenza, delle sue speranze, ma il passaggio da questa vita a un'esistenza migliore. La morte non è la fine, ma l'inizio è il momento per ricevere i premi che, per fede, ha accumulato sulla terra. Se sei un cristiano, nel tuo cuore abiterà costantemente il sentimento di essere uno straniero e un pellegrino in viaggio verso la casa dalle molte stanze. Questa aspettativa ti rende insensibile a tutti quei richiami a riporre ora il tuo tempo, il tuo denaro in quello che non dura per l'eternità. Un cristiano è agli occhi degli increduli e dei religiosi formalisti. Uno stupido perché non tende unicamente agli interessi terreni, ma è saggio per l'eternità, perché al momento della morte entra in possesso di beni che non gli saranno mai tolti. 10. Il decimo elemento che distingue un cristiano è che attende il ritorno di Gesù Cristo. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. 1 Te 1 e 10. Anche da una lettura superficiale delle lettere del non è possibile credere nell'incarnazione, nell'opera, nella resurrezione di Gesù senza attendere il suo ritorno. Perché il cristiano deve avere fede in un evento al quale tutto sommato forse non sarà presente? La fede nel ritorno di Gesù non è un elemento del quale il cristiano può fare a meno? Le risposte non possono che essere negative, perché il ritorno di Gesù Cristo non è un atto di fede peculiare dei cristiani, ma anche di tutti coloro che amavano l'Eterno Dio nell'Antico Testamento. Il desiderio del ritorno di Gesù Cristo innanzitutto consola il cristiano, lo rende gioioso perché Cristo regnerà con giustizia. e crea in lui il desiderio di non peccare, come è scritto, e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Chi crede nel ritorno di Gesù Cristo e lo aspetta ha, dunque, una fede cristocentrica e apostolica, è nato di nuovo, la sua vita cambia, ama i figli di Dio, confessa la sua fede, odia il peccato e ama la giustizia, ha la testimonianza dello Spirito Santo nel suo cuore, comprende le scritture, si riconosce un forestiero e pellegrino. Queste sono alcune delle caratteristiche di un cristiano, e l'elenco non ha la pretesa di essere esaustivo. Ma se non hai queste caratteristiche, o ne hai solo una parte, difficilmente puoi definirti un cristiano. Alla fine del secondo secolo, Tertulliano scriveva ai magistrati dell'impero romano, e, sempre dei vostri che rigurgitano le prigioni, nessun cristiano è là, a meno che non vi sia perché cristiano, e se è là per qualcos'altro, non si tratta di un cristiano. E ancora, ma si obietterà che, anche fra i nostri, qualcuno ha potuto allontanarsi dalle regole della disciplina. Cessa però di essere da noi considerato cristiano. Che responsabilità portare il nome di cristiano? E da ricordare che anche al tempo dell'Apostolo Paolo vi erano persone che si ritenevano cristiane e non lo erano. Ma egli ha lasciato un'affermazione lapidaria e consolatrice che varca la soglia del tempo e che porto nel mio cuore, pregando perché possa rimanere scolpita nel tuo intimo e condizionare la tua vita in modo tale che, se non lo sei, tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore, 2 Timoteo 2,19. Dunque è vero che solo Dio conosce quelli che... Su queste due verità basilari scaturiscono gli elementi distintivi di un cristiano. Marzo 2007. Ellero.